Sottotiro. Sottotiro. Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Sul mio blog Guardie o Ladri mi chiedo in questi giorni se non sia il caso che il Viminale spedisca una commissione di accesso agli atti del comune di Reggio Calabria. La città infatti è attraversata una dopo l'altra da una serie di indagini, non solo della magistratura, che stanno mettendo sotto la lente anni di vita amministrativa. Tutto forse ha origine nella cosiddetta indagine Meta, che in una calda giornata di metà giugno 2010 portò alla luce la trama di potere criminale della città di Reggio, scientificamente suddivisa fra le varie famiglie. Libri Condello e Merti di là e via di questo passo, con una predominanza dell'onnipotente famiglia De Stefano, che da sempre vanta amicizie radicatissime nella politica cittadina. Questo non vuol dire che tutta la politica di Reggio sia corrotta, ma solo che le cosche hanno i loro canali privilegiati d'ingresso. Non so se la mia provocatoria richiesta, che dovrebbe essere sposata a gran voce anche dall'attuale giunta e dall'attuale Consiglio Comunale di Reggio, i cui ruoli nulla hanno a che fare con il passato, ma che avrebbero tutto l'interesse a dimostrare che il comune è una casa di vetro per tutti, avrà un seguito. Non sono un politico, il mio parere è quello di un giornalista, ma vedo che, pur su diversi fronti, Rifondazione Comunista, il PD e FLI hanno invocato o hanno presentato interrogazioni e interpellanze parlamentari che chiedono di far luce su alcuni anni non apparentemente limpidi della vita amministrativa. Pochi giorni fa il Viminale avrebbe chiesto una relazione al prefetto di Reggio Calabria, Luigi Varratta, per verificare eventualmente la possibilità di spedire ispettori ministeriali a Reggio. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire, e speriamo che il neo ministro non guardi in faccia a nessuno. Ricordo la mail per le vostre segnalazioni, sottotiro@radio24.it. Grazie a regia Fabio Cantadori e in studio Luca Cremonese. Buona vita e a domani.